giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Furti e rapine commessi da minori non accompagnati a Udine. La Polizia di Stato ha ricostruito le attività illecite di due minorenni egiziani ritenuti responsabili di alcuni reati caratterizzati da forti azioni intimidatorie nei confronti delle persone offese. Le Fiamme Gialle di Udine hanno sequestrato dagli scaffali di quattro punti vendita del nord-est oltre 30.000 confezioni tra deodoranti, creme, balsamo, shampoo contenenti una sostanza chimica bandita dall'Unione Europea dal 2022 ritenuta dannosa per la salute. Udienza stamane al Tribunale di Udine per l'omicidio di Lauretta Toffoli, uccisa con 36 coltellate nel suo appartamento di Via della Valle nella notte tra il 6 e il 7 maggio dell'anno scorso. Accusato del delitto il 41enne Vincenzo Paglialonga, vicino di casa della vittima. Possibile ma non probabile la sentenza in giornata. Proseguono e si concludono oggi in sede di commissione regionale i lavori per l'assestamento di bilancio prima del passaggio in aula della cosiddetta manovra d'autunno previsto la prossima settimana. In occasione della giornata nazionale delle vittime degli infortuni sul lavoro, l'ANMIL di Pordenone ha presentato in un luogo simbolo, l'Interporto, i dati degli incidenti avvenuti finora quest'anno in regione. Una cinquantina di esperti sveviani provenienti da tutto il mondo partecipano in questi giorni a Trieste al convegno internazionale promosso dall'università dal titolo In occasione dei 100 dal capolavoro di Italo Svevo. Buongiorno da Giorgio Bears e Lorenzo Gherinzoni per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di venerdì 13 ottobre che inizia con la cronaca. Come avete sentito, furti e rapine commessi da minori non accompagnati a Udine. La Polizia di Stato ha ricostruito l'attività di due minorenni egiziani ritenuti responsabili di alcuni reati caratterizzati anche da forti azioni intimidatorie nei confronti delle persone offese. Il servizio non è ancora pronto, proseguiamo però con notizie di cronaca. Le Fiamme Gialle di Udine hanno sequestrato dagli scaffali di quattro punti vendita del nord-est oltre 30.000 confezioni tra deodoranti, creme, balsamo, shampoo contenenti una sostanza chimica bandita dall'Unione Europea dal 2022 e ritenuta dannosa per la salute. I prodotti posti sotto sequestro contengono nello specifico il carboxaldeide, cosiddetto Liral, butilfenil, metilpropional, anche denominato Lilial, sostanze che sono entrambe vietate dalle norme europee perché considerate pericolose per la salute. Gli accertamenti si sono conclusi con la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine di quattro persone ritenute responsabili della violazione degli obblighi previsti in materia di sicurezza dei prodotti cosmetici. Le indagini della Guardia di Finanza di San Giorgio di Nogaro sono iniziate in aprile con un controllo su strada di un auto articolato con targa estera. Nell'occasione i militari avevano sequestrato centinaia di confezioni di profumo di fabbricazione extra UE per la violazione delle norme sul trasporto. Dalle successive analisi di laboratorio effettuate sui campioni di prodotto sequestrato era poi emersa in alcuni campioni la presenza del carboxaldeide e del butilfenil metilpropional, entrambi vietati. E dalle ulteriori investigazioni effettuate dai finanzieri presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio è emersa l'esposizione sugli scaffali di vendita al dettaglio di prodotti cosmetici contenenti Liral e Lilial che avrebbero dovuto essere ritirati dal mercato già nel mese di marzo 2022. La cronaca giudiziaria, udienza stamane al Tribunale di Udine per l'omicidio di Lauretta Toffoli, uccisa con 36 coltellate nel suo appartamento di Via della Valle nella notte tra il 6 e il 7 maggio dell'anno scorso. Accusato del delitto il 41enne Vincenzo Paglialonga, vicino di casa della vittima. La pubblica accusa chiede l'ergastolo con l'aggiunta dell'isolamento diurno per 18 mesi. Possibile ma non probabile la sentenza già in giornata. Aiuto, mi ammazza. È l'una e mezza di notte quando un vicino di casa sente queste ultime parole di Lauretta Toffoli, pensionata 74enne, uccisa con 36 coltellate nella notte tra il 6 e il 7 maggio 2022 nel suo appartamento del quartiere udinese di San Rocco. Un tentativo di difesa, il DNA dell'aggressore che prova a tapparle la bocca sotto le unghie della Toffoli, poi il silenzio. Chiesta per l'imputato Vincenzo Paglialonga, 41 anni, non presente in aula, la pena dell'ergastolo per il reato di omicidio, con le aggravanti della rapina e della crudeltà, con l'isolamento diurno per 18 mesi e senza nessun attenuante. Di 3 ore la requisitoria della PM, Claudia Finocchiaro, davanti alla Corte d'Assise di Udine, presieduta dal giudice Paolo Alessio Verni. Vicino di casa, originario del Foggiano, Paglialonga all'epoca dei fatti era agli arresti domiciliari, ma proprio quella notte aveva reciso il braccialetto elettronico. Ad inchiodarlo, secondo la PM, oltre ogni dubbio, la testimonianza del dirimpettaio della Toffoli, il DNA ritrovato, filmati di telecamere di sicurezza, tabulati telefonici, la refurtiva trovata a casa sua, come il televisore della Toffoli. Una discussione tra i due su alcuni beni in argento in precedenza sottratti, poi l'aggressione, di 2-3 minuti, sulla porta di casa. Dopo l'omicidio, Paglialonga avrebbe spostato il cadavere in camera da letto, pulito la scena del delitto e i vestiti. I tendini dietro al ginocchio della Toffoli, recisi, farebbero pensare a un tentativo di depezzamento del cadavere, senza esito. Il movente, secondo l'accusa, di natura economica, un tentativo di rapina. Era appena uscito dal carcere ed era senza soldi. Presenti in aula le due sorelle di Lauretta, Anna e Nella. Dopo la ringa della PM toccherà alla requisitoria degli avvocati della difesa, Pier Giorgio Bertoli e Carlotta Roiatti. Al centro del dibattimento ci saranno le perizie sulla capacità di intendere e di volere dell'uomo. Di 350.000 euro per il figlio e 240.000 euro in tutto per le due sorelle, la richiesta di risarcimento degli avvocati di parte civile. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Grazie al fondo attraverso il quale la Regione contribuisce a finanziare i piccoli comuni che vengono colpiti da eventi atmosferici straordinari, Sochieve riceverà 50.000 euro per coprire i danni causati dal maltempo del luglio scorso su un edificio di proprietà comunale nella frazione di Priuso. Ad annunciarlo l'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, dopo l'approvazione da parte della Giunta della delibera con la quale viene dichiarata ammissibile la richiesta di accedere al fondo per il ripristino dei danni causati dall'alluvione dello scorso 12 luglio. L'eccezionale ondata di maltempo aveva colpito anche il comune della Montagna Udinese, arrecando un danno alla copertura e alle torrette dei camini dell'edificio comunale nella frazione di Priuso. Le risorse stanziate, ha precisato l'assessore Roberti, serviranno a coprire le spese di rifacimento del manto di copertura del tetto dell'edificio, utilizzando un tipo di materiale che assicuri una maggiore resistenza. Proseguono e si concludono oggi in sede di commissione regionale i lavori per l'assestamento di bilancio prima del passaggio in aula della cosiddetta manovra d'autunno previsto la prossima settimana. I soldi a disposizione sono tanti, quasi 340 milioni in più per l'assestamento autunnale del bilancio della Regione, di cui si sta discutendo in queste ore nella prima commissione in Consiglio regionale. Si tratta di 37 milioni che derivano dalle compartecipazioni regionali per i tributi erariali. A questi se ne sommano altri 250 frutto delle entrate fiscali, un segno, fanno notare i consiglieri dell'area di maggioranza, della vitalità del sistema economico regionale. Secondo la proposta delineata dall'assessore della Finanza Zilli, la maggior parte delle risorse in più andrà al Fondo della Protezione Civile per i danni causati dagli eventi meteorologici di quest'estate, una cifra che ammonta a 100 milioni. Altri 60 andranno al Servizio Sanitario Regionale, mentre 6 verranno usati per i contributi all'acquisto di carburante. Tra le altre spese c'è il Fondo di Rotazione per interventi nel settore agricolo, 70 milioni, e quelli per il Fondo di Rotazione per le Iniziative Economiche, 65+5. Infine 15 per gli impianti sportivi, 3 per gli accordi di insegnamento delle imprese e 2,3 per gli scuolabus comunali. Se tutti concordano che si tratta di una variazione di bilancio corposa, soprattutto visto il periodo, alcuni membri dell'opposizione hanno già annunciato futuri emendamenti per la prossima discussione in aula. Tra le critiche, soprattutto da OpenFVG, di Onsel e dai 5 Stelle, ci sarebbe la scarsa lungimiranza di un assestamento che mira più che altro ad amministrare l'esistente anziché mettere in piedi qualcosa di nuovo. Moretuzzo, di Patto per l'Autonomia Civica FVG, aggiunge: manca una visione di ampio respiro sul sistema sanitario nazionale. Tutte letture respinte, tra gli altri, da Maurmeyer di Fratelli d'Italia, che fa notare come la provenienza stessa del denaro dimostri la lungimiranza del sistema messo in piedi dalla Regione, che riesce a dare i suoi frutti. Il dibattito ha spaziato poi su altri temi, più o meno legati all'assestamento. Uno dei più ricorrenti, la relazione della Presidente della Corte dei Conti avvenuta ieri, che ha ricordato come i piccoli comuni siano in difficoltà e come i fondi del PNRR rischino di non essere spesi. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Incidente questa mattina verso le ore 8 a Trieste tra un autobus e uno scooter in via dell'Istria all'altezza dell'incrocio con via Orsera. Due persone sono rimaste ferite, il conducente del motorino, un uomo di 52 anni, e un passeggero del bus. Entrambi sono stati portati a Cattinara in condizioni non gravi. Altri due passeggeri della linea di trasporto urbano sono rimasti invece contusi. All'origine dell'incidente ci sarebbe una mancata precedenza, ma la dinamica è al vaglio della polizia locale di Trieste. Il nucleo interventi speciali della polizia locale, in collaborazione con personale della questura, continua la sua azione di contrasto al degrado urbano sul territorio comunale di Trieste per garantire il rispetto delle regole e della convivenza civile. In particolare, nel mese di settembre, nel corso di alcuni interventi in Piazza Libertà, Piazza Goldoni e Largo Barriera, sono state elevate una dozzina di sanzioni a carico di altrettante persone per mendicità, bivacco e altrettante denunce per detenzione di sostanze stupefacenti e uso di spaccio, porto di armi o di oggetti atti ad offendere, con relativi sequestri. La 73esima giornata delle vittime e infortuni sul lavoro è celebrata dall'ANMIL FVG in un luogo simbolo nel cuore dell'Interporto di Pordenone. Nell'occasione sono stati presentati i dati degli incidenti avvenuti finora quest'anno in regione. Gli infortuni sul lavoro in Friuli Venezia Giulia per chi guida mezzi di trasporto sono in una tendenziale diminuzione che va avanti da anni, soprattutto grazie agli sviluppi della tecnologia. Non è così invece per quanto riguarda gli infortuni in itinere, che restano sostanzialmente sugli stessi livelli, segno che la sicurezza stradale non è migliorata per chi va al lavoro con un mezzo privato, in particolare con l'automobile. La discrepanza emerge dai dati INAIL elaborati dall'AMMI, l'Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi. Le cifre sono state rese note nel corso di una conferenza stampa di presentazione della giornata nazionale delle vittime e infortuni del lavoro del prossimo 22 ottobre. Nel 2021, l'ultimo anno in cui sono disponibili cifre a riguardo, sono stati 10 morti sul lavoro in itinere in Friuli Venezia Giulia, erano solo 3 nel 2017. Allora chiediamo al presidente del AMMIL Pordenone, che ha organizzato questa conferenza stampa e organizza l'incontro del 22 ottobre, Amedeo Bozzer, come mai questa discrepanza in questi dati? Allora, innanzitutto la grande formazione che viene fatta da parte delle aziende per quanto riguarda il trasporto e per quanto riguarda la logistica. Ormai siamo molto attenti, sono molto attenti a questo. Invece per la parte dell'itinere usciamo da un'azienda, ahimè siamo stanchi, pensiamo a tante altre cose, purtroppo c'è poca formazione, dovremmo fare una formazione molto mirata fino al raggiungimento della itazione, ma soprattutto una delle parti, ahimè, e lo sto vedendo quotidianamente, è l'utilizzo del cellulare. Il cellulare è quello che ci porta, purtroppo usciamo dal lavoro, siamo tutti presi da messaggini, da telefonate. Questo dobbiamo toglierlo. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E torniamo alla notizia con cui abbiamo aperto il giornale: i furti e le rapine commessi da minori non accompagnati a Udine. La polizia ha ricostruito l'attività di due minorenni egiziani ritenuti responsabili di alcuni reati caratterizzati da forti azioni intimidatorie nei confronti delle persone offese. Due minori cittadini egiziani collocati in accoglienza in una comunità a Udine sono stati arrestati dagli uomini della squadra mobile della questura del capoluogo friulano e condotti all'istituto minorile di Treviso. Con la loro condotta e per il ruolo di leader con altri coetanei avevano seminato grave allarme nei cittadini durante la stagione estiva, rendendosi responsabili di diversi reati predatori consumati e tentati, a volte in concorso con altri giovani, commessi a Udine e in altri comuni della provincia. Francesco Leo, capo della squadra mobile della questura di Udine. Nelle loro condotte hanno denotato veramente i tratti del leader negativo, se vogliamo, del un po' capobanda. È capitato in due occasioni in Udine che durante un controllo di personale delle volanti di soggetti minori, in un caso uno dei coinvolti era appunto uno dei due a carico del quale oggi abbiamo eseguito la misura, gli agenti sono trovati di fronte 5-6 ragazzi aizzati da colui che doveva essere controllato e che hanno cercato di impedire agli agenti di controllarlo. I due sedicenni, con le loro condotte aggressive e intimidatorie, hanno dimostrato una chiara volontà di prevaricazione e sottomissione dei loro gaetani, diventando dei capibanda. L'attività degli agenti della sezione stazione volanti della Questura, ha consentito al pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trieste, sussistendo i gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati per i reati ascrittigli e l'esigenza cautelare, di impedire la reiterazione degli stessi, di chiedere ed ottenere dal competente GIP le misure cautelari eseguite in mattinata. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. A causa di uno stormo di gabbiani posizionato in testa alla pista, l'aeroporto Marco Polo di Venezia è rimasto chiuso questa mattina per un'ora, dalle 10 alle 11 circa, in accordo con ENAV, e alcuni voli sono stati indirizzati su altri scali, tra i quali quello di Ronchi dei Legionari, dove è atterrato un aereo con a bordo il governatore del Veneto Luca Zaia. Lo scalo veneziano è tornato poi regolarmente operativo alle 11.20. Confagricoltura Pordenone ha rinnovato i propri vertici. Il consiglio direttivo dell'organizzazione agricola, riunitosi nei giorni scorsi, all'unanimità ha rieletto alla presidenza Nicolò Pancera di Zoppola Gambara per il prossimo triennio. 47 anni, sposato, padre di due figli, residente a Zoppola, Nicolò Pancera è imprenditore agricolo professionale, titolare di un'azienda agricola di circa 200 ettari con coltivazioni a seminativi e frutticoltura indirizzate in particolare verso la produzione di frutta a guscio, noci e nocciole. Pancera di Zoppola, durante il suo mandato, sarà affiancato dai vicepresidenti Carlo Ferrato di Sbrogliavacca e Michelangelo Tombacco. E ora uno sguardo alla situazione del meteo. La nuvolosità è variabile sulla regione. Queste le temperature registrate poco fa. A Trieste ci sono 21 gradi e mezzo, il mare è quasi calmo con temperatura di 23 gradi. A Gorizia 21 gradi e mezzo, a Pordenone 21, a Udine 20 gradi e 5 decimi. A Tolmezzo 18 gradi, a Tarvisio 17 gradi e mezzo, a Forni di Sopra 16 gradi e 5 decimi, a Sappada 15 gradi, a Piancavallo 13. Sui Monte Lussari e sul Monte Zoncolan 13 gradi, passando la costa a Lignano ci sono 23 gradi, a Grado 22. La temperatura del mare nelle due località balneari è di 22 gradi. Ma sentiamo dal previsore dell'ARPA, Marcellino Salvador, cosa ci aspetta nel weekend dal punto di vista del meteo. Questo fine settimana avremo una situazione che vedrà passarci dall'anticiclone caldo e con aria umida che già caratterizza il tempo attualmente all'arrivo di Bora nella giornata di domenica, con un contrasto tra le due masse d'aria che si avrà prevalentemente domenica mattina. Quindi domani cielo in prevalenza nuvoloso con umidità ancora elevata ma anche con temperature ancora relativamente elevate, che raggiungeranno probabilmente 23-24 gradi. È possibile che domani vi sia qualche prima pioggia in maniera sparsa, più probabilmente verso le prealpi e verso est, ma in genere diciamo non pioverà nella maggior parte delle ore della giornata. Peggioramento invece dalla tarda serata di domani, quindi da sabato sera nella notte e poi domenica mattina, con piogge e qualche temporale anche su pianura e costa, anzi potrebbero essere più abbondanti lì le piogge, con l'arrivo in giornata di Bora anche sostenuta sulla costa, che porterà però un miglioramento solo dal tardo pomeriggio probabilmente sulla regione, con una diminuzione delle temperature. Ci sarà un ricambio d'aria deciso, per cui poi la temperatura scenderà e avremo due giornate, quelle di lunedì e martedì, con cielo poco nuvoloso, variabile per delle velature, ma non succederà niente, una bora moderata sulla costa e temperature massime al di sotto dei 20 gradi, che diventeranno temperature normali, mentre adesso quella temperatura è più alta della norma. In particolare ricordiamo quella del mare, che ha 4-5 gradi oltre il valore che dovrebbe avere in questo periodo. Abbiamo anche attraversato un ultimo periodo di nuovo piuttosto secco, questo inizio di autunno è stato relativamente poco piovoso qui in Friuli Venezia Giulia. Sì, è vero, però diciamo c'è già questo primo episodio nel weekend e dopo è possibile, i modelli a lunga scadenza ci dicono che probabilmente dalla seconda parte della prossima settimana potrebbe riprendere a piovere in maniera più decisa e su tutto il territorio del nord Italia, anche ovviamente sulla nostra regione, quindi riportare quell'acqua che per il momento manca, ma che però questa situazione ha agevolato notevolmente le operazioni di agricoltura, diciamo, in regione, che si stanno concludendo. Una notizia di sport atletica, sono in tutto 126 gli atleti che gareggeranno domenica prossima a Cercivento in occasione del campionato italiano chilometro verticale, disciplina tra le più toste nel panorama della corsa in montagna. Nel dettaglio sono 88 uomini e 38 donne ad aver accettato la sfida lanciata dall'APD Timau Cleulis e dalla Proloco di Cercivento, organizzatori dell'evento, che si svolgerà lungo un percorso di poco superiore ai 4 chilometri. 6 o 12 mesi all'estero per studiare, sempre più ragazzi scelgono questa opzione anche nella nostra regione. Per chi ci sta pensando resta meno di un mese di tempo per iscriversi ai concorsi per trascorrere un anno delle superiori all'estero. Può sembrare prematuro mandare un figlio di 16 o 17 anni a studiare all'estero per 6 mesi o per un anno intero, eppure chi è partito quasi sempre lo rifarebbe, come Margherita Visintin, studentessa partita dal Liceo Scientifico Galilei di Trieste con Intercultura, l'associazione di volontariato nata negli Stati Uniti e ora diffusa in 60 paesi. Prima della partenza i ragazzi vengono guidati dai volontari come Caterina Palmolungo, studentessa dell'Università di Udine, ora in Erasmus a Cordoba. Ormai 4 anni fa, quindi nel 2019, sono partita per un anno in Argentina. Io sono ex borsista e ho vissuto appunto un anno in una famiglia all'estero. E appena tornata dall'anno ho deciso di voler aiutare i ragazzi che sono partiti, ma anche di non tagliare, diciamo, un legame con l'associazione, che comunque mi ha dato un'esperienza bellissima, che per me è stata importantissima, ecco. Manca meno di un mese alla chiusura delle iscrizioni per partire l'anno prossimo. I volontari di Intercultura Trieste e Gorizia ieri sera hanno incontrato le famiglie interessate a saperne di più nella sede del progetto Area Giovani. Il prossimo incontro sarà il 25 ottobre alle 11.30 a Monfalcone e infine l'8 novembre alle 20.30 online per ricevere informazioni anche sulle numerose borse di studio a disposizione. E possono essere borse di studio che ricoprono tutto, diciamo tutta la spesa, quindi del 100% fino a scalare fino al 20%, fino appunto alla quota da pagare totale, e sono borse di studio erogate con Intercultura oppure appunto erogate da partner esterni o anche ad esempio da Itaca, quindi della borsa di studio dell'INPS. Il servizio era di Francesca Terranova. La diva May Murray, nelle vesti di Circe, è la protagonista della serata del Festival del Cinema Muto a Pordenone. Alle 21 sarà infatti proiettata la pellicola Circe e la Maga del 1924, diretto da Robert Leonard. La proiezione sarà preceduta dal cortometraggio Harlem Sketches del 1935, che testimonia le misere condizioni di vita degli afroamericani di Harlem durante la Grande Depressione. Gran finale con la consegna del premio Jean Mitria a Natalia Nussinova, docente dell'Università per Stranieri con numerose presenze nelle università europee. Assieme a Nussinova sarà premiata anche Heide Schlupmann, accademica che per anni ha collaborato alle giornate del cinema muto ed è stata membro del progetto Archimedia dell'Unione Europea. Una cinquantina di esperti sveviani provenienti da tutto il mondo partecipano in questi giorni a Trieste al convegno internazionale promosso dall'università locale dal titolo In occasione dei 100 anni dal capolavoro di Italo Svevo. 100 anni della coscienza di Zeno, Trieste in fibrillazione, ci sono tantissime attività. Oggi siamo ad Androna Campo Marzio, nella sede della facoltà del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Trieste. Qui con me la professoressa Elena Lozzano, delegata dipartimentale della terza missione, quindi colei che ha un po' organizzato l'anima di questo evento insieme a tanti altri colleghi docenti dell'università. Professoressa, ci dica che cosa ci aspetta in questo autunno sveviano. Questo autunno sveviano sarà ricchissimo di attività perché sono il frutto di un programma messo a punto insieme al Comune di Trieste, al Teatro Rossetti, alla Fondazione Lirica Verdi e ovviamente l'Università, in cui faremo moltissime attività per celebrare questo romanzo meraviglioso che è La coscienza di Zeno. Siamo partiti da questo convegno, il Teatro Rossetti era partito anche con lo spettacolo del centenario, abbiamo fatto anche una bella festa di compleanno a maggio, ricadeva proprio proprio il centenario della pubblicazione in quelle date lì, abbiamo fatto proprio la festa di compleanno. Però quest'autunno sarà comunque molto ricco con questo convegno, veramente siamo soddisfattissimi perché abbiamo più di 50 partecipanti, parliamo anche da altre parti del mondo, abbiamo visto. Assolutamente sì, solo per le traduzioni abbiamo proposte che ci sono arrivate dalla Turchia, dal Giappone, dalla Polonia, dalla Spagna, dalla Romania, quindi siamo veramente soddisfatti della nostra idea e dell'idea di tutto il progetto, che è rendere attuale questo personaggio dell'Inetto, questa figura così cara. E adesso questa sera alle 21 all'auditorium del Museo Re Voltella qui a Trieste ci sarà un incontro finanziato dalla Regione, immersivo, con le suggestioni visive di Antonio Giacomin e Raffaele Pinto dell'Università de Barcelona. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Le mostre e testimonianze di una Trieste che non c'è più, nell'esposizione che si inaugura alle 18.30 alla Biblioteca Statale Stelio Crise, dal titolo Il secolo di Aldo Bressanutti. La rassegna vuole festeggiare i 100 anni d'età del pittore e i suoi 80 anni di attività artistica che tuttora prosegue. Ed è tutto per questa seconda edizione del Giornale Radio, che è stata redatta e condotta da Lorenzo Gherlinzoni e Giorgio Beers, che vi parla, collaborazione tecnica di Mauro Cumin e di Bruno Montevecchi, a collaborazione da Valentina Veneruso. Vi ricordiamo che il prossimo appuntamento è con il GR e, come sempre, alle 15. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.